Capitolo 29. Il matrimonio di Diana. Dopotutto, le sole rose vere sono quelle rosa, disse Anna, legando il bouquet di Diana con un nastro bianco, nella veranda volta a occidente di Orchard Slope. Sono i fiori dell'amore e delle promesse di fedeltà. Diana sostava nervosamente al centro della stanza, abbigliata nel bianco abito da sposa, irici neri coperti dal velo nuziale, come da una rete di ghiaccio scintillante. Era stata Anna a drappeggiare quel velo, secondo gli accordi di tanti anni prima. È tutto molto simile a come l'ho sognato tanto tempo fa, quando versavo lacrime sul tuo inevitabile matrimonio e sull'altrettanto inevitabile tua partenza, rise Anna. Tu sei la sposa dei miei sogni. Diana, con il fatato velo di nuvola, e io sono la tua damigella, ma ahimè. Io non ho le maniche a sbuffo, anche se queste corte e di pizzo sono ancora più graziose. Il mio cuore non è del tutto spezzato, io non odio proprio Fred. Noi non ci stiamo davvero separando, protestò Diana. Io non vado poi così lontano, ci vogliamo bene come sempre. Siamo sempre state fedeli a quel giuramento di amicizia che abbiamo pronunciato anni fa, non è vero, Anna? Sì, l'abbiamo sempre mantenuto. La nostra è stata una bella amicizia, Diana. Non l'abbiamo mai incrinata con una lite o un momento di freddezza o una parola aspra, e io spero che continuerà così per sempre. Ma le cose non saranno più le stesse dopo le tue nozze. Tu avrai altri interessi, io sarò soltanto una di fuori, ma così va la vita. Come dice la signora Rachel. La signora Rachel ti ha dato una delle sue amate coperte a patchwork sulle tonalità tabacco e dice che ne farà una anche per me quando mi sposerò. La cosa principale per quanto riguarda il tuo matrimonio è che io non potrò farti da damigella, si lamentò Diana. Io farò da damigella a Phil la primavera prossima quando sposerai il suo signor Blake e allora dovrò smetterla perché conosci il proverbio. Tre volte damigella della sposa, mai sposa, disse Anna, sbirciando attraverso la finestra il bianco niveo colore degli alberi in boccio. Sta arrivando il pastore, Diana. Oh, Anna. Annaspò Diana diventando pallida e cominciando a tremare. Oh, Anna, mi sento così nervosa. Oh, credo che non ce la farò. Anna, mi sento svenire. Se ti succederà, ti porterò fino alla cisterna dell'acqua piovana e ti rovescerò dentro, infierì Anna inflessibile. Su, con il morale, piccola. Sposarsi non è così terribile se tanta gente sopravvive alla cerimonia. Guarda come sono fredda e compassata io e traine coraggio. Aspetta che arrivi il tuo turno, signorina Anna. Oh, Anna, sento mio padre salire di sopra. Dammi il bouquet. Il velo è dritto? Sono pallida? Ah, sei solo bellissima. Avanti, cara. Dammi il bacio dell'addio, Diana Barry. Non mi bacerai mai più. Ma lo farà Diana Wright. Ecco, mia madre sta chiamando. Andiamo. Secondo la moda semplice e all'antica del tempo, Anna scese in salotto al braccio di Gilbert. Si incontrarono in cima alle scale per la prima volta da Kingsport perché Gilbert era giunto solo quel giorno. Gilbert le strinse cortesemente le mani. Aveva un bell'aspetto, sebbene, come Anna notò immediatamente, fosse un po' dimagrito. Non era pallido, anzi, c'era sulle sue guance un lieve rossore, comparso appena Anna aveva attraversato la penombra del ballatoio incontro a lui, nel suo soffice abito bianco, con i capelli luminosi cosparsi di mughetti. Come scesero nel salotto affollato, un mormorio di ammirazione percorse la stanza. Che bel paio di ragazze! Bisbigliò la signora Rachel a Marilla. Fred attendeva, solo, rosso in volto, e Diana avanzò tranquillamente verso di lui al braccio del padre. Non svenne, non accadde nulla che potesse turbare la cerimonia. Seguirono feste e danze finché al primo calare della sera Fred e Diana salirono in carrozza per raggiungere, sotto il chiaro di luna, la loro nuova dimora. Gilbert accompagnò Anna a Green Gables. Qualcosa della loro vecchia amicizia era tornato durante la spontanea allegria della serata. Oh, quanto era dolce camminare di nuovo con Gilbert lungo la via conosciuta. La notte era così silenziosa che sarebbe stato possibile udire il lieve mormorio delle rose in boccio, la risata argentina delle margherite, il bisbiglio dei fili d'erba, infiniti dolci suoni armoniosamente mescolati. La bellezza del chiaro di luna sui campi vestiva il mondo di luce. Non possiamo fare una passeggiata fino al sentiero degli innamorati? Prima che entri in casa? Domandò Gilbert quando attraversarono il ponte sul lago dalle acque scintillanti in cui la luna annegava simile a un grande bocciolo d'oro. Anna acconsentì di buon grado. Il sentiero degli innamorati era quella sera un vero sentiero da fiaba, una scintillante terra misteriosa, colma di magia nel biancore incantato del chiaro di luna. C'era stato un tempo in cui una passeggiata con Gilbert sul sentiero degli innamorati al chiaro di luna sarebbe stata troppo pericolosa, ma ora Roy e Christine la rendevano innocua. Anna si trovò spesso a pensare a Christine mentre chiacchierava allegramente con Gilbert. L'aveva incontrata parecchie volte prima di lasciare Kingsport e l'aveva trattata con accattivante dolcezza. Anche Christine l'aveva trattata con altrettanto accattivante dolcezza. Si erano mostrate entrambe davvero assai socievoli, ma nonostante questo la loro conoscenza non si era mai trasformata in amicizia. Evidentemente Christine non era uno spirito affine. Starai ad Avonlea quest'estate? Domandò Gilbert. No, partirò per l'est, per Valley Road, la settimana prossima. Esther Hathorn vuole che insegni da lei, luglio e agosto. Tengono dei corsi estivi nella sua scuola ed Esther non si sente. Non si sente bene, così andrò a sostituirla. In un certo senso non mi dispiace. Non so, comincio a sentirmi un'estranea qui ad Avonlea. Mi spiace, ma è la verità. È desolante vedere la quantità di ragazzini che si sono trasformati in ragazzoni e ragazzone. In realtà, giovani donne e giovani uomini, in questi ultimi 2 anni. Metà dei miei scolari sono ormai così, mi fa sentire terribilmente vecchia vederli occupare quegli stessi posti che tu e io e i nostri compagni credevamo nostri nemmeno troppo tempo fa. Anna rise e sospirò. Si sentiva davvero vecchia e matura e saggia, il che provava quanto fosse giovane. Si disse che avrebbe desiderato ardentemente tornare indietro a quei dolci giorni felici quando la vita era vista con gli occhiali rosa della speranza e dell'illusione e possedeva quel qualcosa di indefinibile che per lei se n'era andato per sempre. Dov'era ora quel sogno di gloria? Così va il mondo, disse Gilbert con i piedi per terra e l'aria distratta. Anna si domandò se stesse pensando a Christine. Oh, Avonlea sarebbe stata un luogo così solitario ora. Con Diana lontana. Capitolo 30. Il romanzo della signora Skinner. Anna scese dal treno alla stazione di Valley Road e si guardò intorno per vedere se era arrivato qualcuno ad aspettarla. Doveva andare a pensione da una certa signorina Janet Sweet, ma non vide nessuno che rispondesse minimamente all'immagine che si era fatta di codesta signora. In base alle lettere di Esther, l'unica persona all'orizzonte era un'anziana signora seduta su un vagone tra pile di sacchi postali. Indossava un vestito di cashmere nero e castigato, fatto secondo la moda di 10 anni prima, un piccolo cappello di paglia nero e polveroso, decorato con ciuffi di nastro giallo e guanti sbiaditi di pizzo nero. «Ehi tu!» chiamò facendo segno con un frustino ad Anna. «Sei tu, ragazza, la nuova maestra?» Sì. Bene, l'ho pensato subito. Valley Road è nota per le sue maestre, così come Millersville è nota per i suoi ronzini. Stamani Janet Sweet mi ha chiesto se potevo darti uno strappo. Io ho detto cribbio che posso, se non le dispiacciono un po' di scricchioli. Questo mio trabicolo sarà piccolo per la posta, ma è meglio di Thomas. Adesso aspetta soltanto, signorina, che ci imbarco questi pacchi che poi ti do una tirata sopra. Siamo solo a 2 miglia da Janet. Il servitore del suo vicino porta a porta viene stasera a caricarsi il baule. Mi chiamo Skinner, Amelia Skinner. In qualche modo Anna fu fatta entrare e sorrise divertita tra sé durante l'operazione. Va avanti, giumenta nera, ordinò la signora Skinner, stringendo le redini con le mani tozze. Questo è il mio primo viaggio con la posta. Thomas voleva piantare le sue patate e così mi ha chiesto di venire. Perciò mi sono seduta e mi sono mangiata qualcosa e sono arrivata. A me piace molto. Certo che non c'è da divertirsi. La maggior parte del tempo sto seduta e penso che. E per il resto sto ancora seduta e. Dai, tira dritto, giumenta nera. Voglio arrivare a casa veloce. Thomas si sente maledettamente solo quando non sto con lui. Sai, maestra, non siamo sposati da molto. Oh, commentò educatamente Anna. Solo un mese. Thomas mi ha fatto la corte per un bel po', eh? È stato un mucchio romantico. Anna cercò di figurarsi la signora Skinner come un personaggio romantico e fallì miseramente. Oh, commentò ancora. Sì, vedi, c'era un altro che mi stava dietro e va avanti, giumenta nera. Sono stata vedova così tanto tempo che la gente non si aspettava che mi sposassi un'altra volta. Ma quando il mio fringuello, maestra di scuola come te, se n'è andata nel West a insegnare, mi sono sentita sola come un cane, non avevo nulla da dire contro quest'idea. Proprio allora Thomas ha cominciato a farsi avanti e c'era un altro tipo, William Obadiah, Seaman era il suo nome, che mi ronzava intorno. Per un mucchio di tempo non riuscivo a decidere chi dei due dovevo prendermi e loro sempre intorno e io mi preoccupavo. Vedi un po'. William Obadiah era ricco, aveva un posto elegante da viverci e poi uno stile che uno non se l'aspetta. Era di gran lunga il partito migliore e va avanti, giumenta nera. Perché non hai sposato lui? Si incuriosì Anna. Beh, mica mi amava, dichiarò solennemente la signora Skinner. Anna spalancò gli occhi a dismisura e guardò la signora Skinner, ma non c'era ombra di riso sul volto della donna. Evidentemente non vedeva nulla di divertente nel proprio caso. Sì, lui era vedovo da 3 anni e sua sorella gli badava alla casa, poi lei si era maritata e lui voleva solo una che gli badasse alla casa. Era un lavoraccio, ricordatelo. È una gran bella casa e va avanti, giumenta nera. Quanto a Thomas, lui era povero e la sua casa magari era pittoresca, ma faceva acqua da tutte le parti e se il tempo era secco bastava soffiare, che se non cadeva era un miracolo. Ma vedi, maestra, io amavo Thomas e non mi importava un fico secco di William Obadiah, così mi sono detta Sara Crow. Ho detto che ero Crow per il mio primo marito, che era un Crow. Puoi sposare il tuo uomo ricco se vuoi, ma non aspettarti di essere felice, che la gente in questo mondo non tira avanti per molto senza un briciolo di amore. Così fai meglio metterti con Thomas, che lui ama te, tu ami lui e del resto chi se ne importa. E va avanti, giumenta nera. Così ho detto a Thomas che me lo prendevo. Tutto il tempo che mi preparavo non ho mai avuto il coraggio di passare da casa di William Obadiah, per paura che la vista della sua bella casa mi mettesse ancora in confusione. Ma adesso non ci penso proprio più e sto un gran bene con Thomas. E va avanti, giumenta nera. E come l'ha presa William Obadiah? Indagò Anna. Oh, si è un po' scocciato, ma adesso va a trovare una vecchia zitella taccagna a Millersville e io penso che se la prenderà presto. Spero che le faccia la proposta meglio che alla prima. William Obadiah non ha mai avuto intenzione di sposarla, le ha solo chiesto di sposarlo, perché suo padre voleva così, aspettandosi che lei dicesse no. Ma pensa, maestra, lei ha detto sì. Questa era la situazione. E va avanti, giumenta nera. Lei era una grande donna di casa che dovevi vedere come la teneva, ma brutta che faceva paura. Ha messo lo stesso berretto per 18 anni. Quando se n'è comprato uno nuovo, suo marito l'ha incontrata per strada e non l'ha riconosciuta. E va avanti, giumenta nera. Sento che l'ho scampata bella. Se l'avessi sposato mi sarei sentita una poveretta come la mia disgraziata cugina Jane Ann. Jane Ann si è sposato un uomo ricco che non gliene importava niente e ha fatto una vita da cani. Lei è venuta a trovarmi l'altra settimana e mi ha detto Sara Skinner. Mi ha detto, io ti invidio, è meglio vivere in una catapecchia con uno che ami che in una villana con uno che non ti va. L'uomo di Jane Ann è un'erbaccia grame, un bastian contrario che mette la pelliccia quando il termometro segna 40 gradi all'ombra. L'unico modo per fargli fare quel che vuoi è dirgli di fare il contrario. Ma se non c'è amore ad ammorbidire gli spigoli è una vita da cani. Va avanti, giumenta nera. Ecco lì la casetta di Janet nella valle. Wayside si chiama. Pittoresca, eh? So che ti fa piacere schizzar fuori da questo trabicolo con tutti quei sacchi della posta ammucchiati intorno a te. Forse, ma mi è piaciuto tanto questo viaggio con lei, disse Anna con sincerità. Schizza fuori adesso, ordinò la signora Skinner molto compiaciuta. Ah, aspetta che te lo dica, che lo dica a Thomas. Quando mi fanno un complimento lui diventa nervoso come un gatto. Va avanti, giumenta nera. Bene, ci siamo. Spero che ti troverai bene alla scuola, signorina. Qui c'è una scorciatoia che va dritta al retro della casa di Janet, ma stai attenta che taglia la palude. Se ti scivola un piede in quella melma nera, quella ti succhia e non esci fino al giorno del giudizio come la mucca di Adam Palmer. Va avanti, dritto, giumenta nera.